Passione Africana di Gigi Donelli e Roberto Antonini. Un saluto da Roberto Antonini. Tantissimi bambini nel piccolo villaggio di Nimabuya, non lontano da Gitarama. Qui vive Yukunda, una cinquantenne Hutu. Il genocidio dei Tutsi in Ruanda lo ha vissuto pure lei in modo tragico. Lei che ha una storia tutta sua da raccontarci. Una storia di eroismo, una piccola luce nel grande buio dell'orrore. Mi parà, mi frere e... la famiglia di mio marito. Sono morti i miei genitori, i miei fratelli, la famiglia di mio marito. Sono morti cercando di scappare, ammazzati o morti di fame, uccisi nel confronto tra miliziani in Teramue e l'FPR. Eravamo in 15, siamo rimasti in 3. Perché persone ne mereste che tu ha persone osservate? Non vivono a pace. No, non c'erano problemi tra noi e Tutsi, eravamo uniti, ero madrina di un bambino Tutsi. A Gitongoro vivevamo in pace, a Nianza avevo degli amici Tutsi. Quando è cominciato il genocidio sono venuti a rifugiarsi da noi. La sua piccola Schindler List comprende 3 nomi, quelli di 2 bimbi e della loro madre, Caritas, che ritroviamo a Kigali. Loro devono la vita a Yukunda. Nel 94 ci ha aiutati, ci ha salvati. Quando è cominciato il genocidio è andata a prendere i miei 2 bimbi e li ha portati a casa sua. Poi sono riuscita anch'io ad andare a casa sua e ho potuto ritrovare così i miei figli. Una piccola grande storia di eroismo e coraggio. La memoria di quell'orrore lungo 1 milione di morti ancora vivissima in Ruanda. Ma la speranza c'è, esiste e affonda le radici nelle vicende di chi ha saputo dire no alla logica dell'odio. Passione Africana è stata realizzata da Radio 24 in collaborazione con Eni.